sai, sia preciso preciso, fra, adesso mi ho trovato uno, un po' una base, 23 canali, prendo quello, adesso vediamo se funziona bene, se praticamente va bene, ma dovrebbe andare bene, quelli andavano molto bene. Capo, perché tu arrivi a quasi 9 qua, nell'opera, e invece qua mi stai arrivando 5 su questa radio, stai arrivando. Però sicuramente non smetti di ballare. Vabbè, sì, tu mi stai arrivando giusto, ma 7 quando attacchi 9. Capo, sì, vabbè. Adesso sto uscendo con 3 watt, dai, 3 watt. Non ha di più questa radio. No, io sto andando col capo adesso, dopo più tardi accendo l'altro. Devo far andare anche questa, se no è un casino, capito? Devo usare. Però il tuo segnale è giusto, quindi è un problema di ricezione che hai lì. Sì, un problema di ricezione. E come radio è buona? Alla grande, come radio è buona. Oh, sembra che è silenzioso, sembra che ci abbia una colonnina esterna. Registrato, bravo. Quello che sto prendendo io è così, con la colonnina davanti, con la toppolante davanti, capito? A me piacciono quelli. Avanti, break. Buongiorno a tutti, Alberto da questa parte, ben sentiti. Ho fatto un cambio di alimentatore e ti rimando avanti, e quando c'è la possibilità mi date un resoconto che ho. Sto utilizzando Lincoln con alimentatore ATX per computer, forse non so se ne ho parlato in questa ruota qualche giorno fa, finalmente l'ho procurato, voglio capire se esce in maniera decente. Dai, vieni avanti. Alla grande Alberto, ciao, buongiorno, Claudio Sparviero da Sassari, ben ascoltato, in compagnia di Franco da Sorso, poi c'era anche Roberto Quadrato, Roberto Barghero, Eugenio, insomma non so poi che fine abbiamo fatto perché io stavo facendo altro, segnale 9 quasi più 10 e per me va bene, per me penso che vada bene perché stai andando bene, avanti fra, lo senti Alberto? Sì, lo sento, lo sento basso basso, però riesco a tirarlo fuori. La modulazione è bella, è una bella radio, però di segnale io non te lo posso dare perché lo smith che ho qua è tutto sballato per il momento. Però come radio sì, abbastanza, una radio di 5 buona. Ok, dai, ti ringrazio, io ti ascolto bene, 5 e mezzo con una bella radio, c'è un po' di QRM oggi, quindi falsa un pochettino perché chi non arriva a bomba un po' si mette a livello QRM. Dai, grazie per il controllo, mi interessava moltissimo sapere se ci fossero ronzii alternato altro, perché alla fine dopo un po' di prove in questi giorni ho optato per questo alimentatore da 500 watt, un residuato di PC, e sono contentissimo perché al picco della modulazione flette a 11 volts, diciamo in USB a 10,9, ma di fatto sembra che la modulazione del Lincoln non ne risenta. Ieri vi ascoltavo, non so chi ci fosse, c'era l'Andalusia a bomba e poi sul 30 in AM sono anche riuscito a farmi sentire da qualcuno dal Portogallo, però diciamo volevo capire se la radio era adatta e se si potesse andare avanti con questo alimentatore. Dai, ti ridò il mic. Capo, guarda, io non sento nessun ronzio, non ti sento nella tua modulazione, a meno che Claudio, che è più vicino, probabilmente che riesce a tirar fuori qualcosa, ma per me è pulitissima la radio. Ok, metto il microfono in mano a Claudio, così ti dà il suo parere. Avanti Claudio. Sì, capo, grazie del cambio, fra. Vieni avanti Alberto. Hola. Allora, adesso io sono, questo è un Lincoln 2, quindi dovrebbe buttare fuori circa 15 watt con l'RF al massimo, e sono col mic gain del Lincoln lo stesso al massimo, quindi microfono originale di un Lincoln 2 col mic gain al massimo e potenza al massimo, e giusto avevo il dubbio per questa alimentazione un po' anomala, però devo dire che considerando che c'è il mondo invaso da alimentatori ATX che vengono buttati, io non ho idea di quanti case di PC obsoleti o buttato negli ultimi anni, e francamente adesso così l'idea che possano essere una buona risorsa per alimentare queste radio mi piace molto. Ho visto in rete ci sono una marea di progetti per modificarli e tirare su il voltaggio, ma francamente non ne vedo la necessità, perché mi sembra che vada, perlomeno questa radio va bene così. A te il mic. No, va benissimo alla grande, 9+10 segnale, nessun disturbo, radio 5 perfetta, bella corposa, con le tonalità giuste, per me stiamo andando bene, non ho niente da dire, Alberto. Ok, ti ringrazio, diciamo che la prova è fatta, va bene. Ieri, che meraviglia, una propagazione, forse una delle più belle dell'ultimo periodo, sembrava di parlare al citofono con questi del Portogallo, in AM soprattutto, sono stati veramente un paio d'ore interessanti. Oggi invece sembra tutto chiuso, ma magari più tardi si potrà di nuovo fare qualcosa. Dai, rimando avanti te, perché hai un po' il polso della situazione, sai chi c'è in ruota. Io, non avendo ascoltato a lungo, e sono entrato quasi subito sbagliando, e quindi non so bene a chi rimandare il mic, e lo rigiro a te. KQSL Alberto, non problema, sono io e Franco momentaneamente, gli altri sono sentati tutti. Sì, ho visto, io sono un radioamatore, quindi ho le HF accese in 40 metri, credo che c'è già abbastanza propagazione, anche ieri sia in 15-20 metri. Insomma, c'era un po' di traffico a livello anche locale, e noi qua in 11 metri in pratica sentivamo appunto gli spagnoli che ci salutavano, che volevano entrare chiamando Italia Italia. Vabbè, ma io sono abituato a queste cose, quindi evito a volte, perché sto tutto il giorno con l'HF acceso, quindi va bene. Il cambio per Franco, allora, hai provato a dare un colpettino sul vetrino, sia che inchiodato qualcosa, no? No, sta andando, però mi dà i segnali bassi, capito? Mi dà i segnali bassi. Provo al limite ad aprire e regolarlo alla radio grande, dai, ai segnali della radio grande, a vedere. Però, se no già va bene così, cosa me ne frega. Bene, bene, Alberto, arrivi benissimo comunque, di radio almeno. Il segnale non te lo posso dare, come ti ho detto poco fa, per quel motivo no. Però la modulazione è bella, chiara e pulita. Invece tu sei salito negli ultimi passaggi, sei diventato un 8 sullo smitter, e quindi adesso emergi molto bene dal QRM, e non so se hai cambiato qualcosa realmente, però sei salito notevolmente. Sì, immagino che chi fa attività radioamatoriale con ben altre bande, sì, effettivamente ho presente che l'emozione che può dare a me gli ex così sporadico non è, potrebbe essere routine per chi utilizza altre radio, e anche per più tempo e con più esperienza. Quindi magari, infatti mi è capitato anche ieri di entrare in queste ruote di portoghesi e di sentirmi, insomma, in qualche modo dire sì, va bene, l'abbiamo sentito, però adesso lasciaci parlare. Quindi diciamo che la mia entusiasmo nel sentirli non era ricambiato al 100%, mi sono reso conto. Dai, a te il mic. Sì, capo Alberto. Beh, per noi è, diciamo che è come parlare qua, no, non ci sono problemi, perché avendo le antenne, le apparecchiature adatte, io poi ho un sistema montato a 45 metri di altezza, quindi tre elementi 10, 15, 20 direttiva, 5 elementi per i 6 metri, ho le filari 15, 20, 40 e 80, anche i 60 metri ci hanno segnato da poco, quindi avendo tutte le antenne è chiaro che per noi parlare così a livello locale quando facciamo questione, insomma, dai. Va bene, almeno ti fai un po' di esperienza e ti appassioni un po' di più alla radio, va benissimo. Non lo so, ma infatti non serve a niente, anche perché c'è il riferimento della grande, quindi se stai parlando con me, se mi serve un controllo più preciso me lo dai con quella grande, se no con quella piccola, ma usa di nafutti, lascia stare così, è meglio sempre non toccare niente, le letterature sugli strumenti delle radio vanno fatte con sonde, vanno fatte con criterio, con apparecchiature precise, non così a toccare un trimerino e portarlo al segnale che arriva a Claudio Sparviero, non esiste, è meglio lasciarlo così o fa, può essere che sia anche un problema di usura di radio, cioè stai parlando di una radio degli anni 70, non è che puoi pretendere molto, quindi non serve toccare niente, lasciala stare così, a te fa. Ehi capo, sì, infatti non la tocco, non vale la pena, dai, aprirla e toccarla. Se la lascio così, la lascio, poi se c'è, come hai detto tu, dare un segnale, c'ho l'altra già pronta, giro il commutatore e sto andando con l'altra. Ma infatti, cioè le prove facciamo noi, in questo periodo stiamo provando un po' di tutto, di più, però una volta che è quello, a me più che altro posso chiedere quando cambio microfono le differenze di radio, ma a me il segnale non mi cambia perché l'antenna è sempre quella, quindi non già va bene, non lo toccare fra, non lo toccare, io c'ho l'Elbex che è abbastanza preciso col 440, abbastanza preciso, però c'è sempre qualche cosettina di differenza, ma non le vale la pena toccare niente, lo lascio così perché sono radio vintage e vanno usate in quella maniera. Anche il DAC è la stessa cosa, sono molto più alti i segnali, molto più generoso, ma può dipendere anche dalla radio stessa, capito fra? Non sempre dipende anche dallo strumento. Ok Alberto, domanda, in che zona orientativamente stai parlando? Io sono nella zona alta di Carbonazzi, trasmetto dal mini grattacielo di 10 piani, quindi circa 45-50 metri di altezza. Ah, ok, ti sono passato probabilmente sotto prima facendo una corsetta lì dalle parti di via Milano. No, io sono emiciclo, zona emiciclo, invece io sono un secondo piano, però ho una bella antenna in vetroresina 5 ottavi che mi sta dando grande soddisfazione. Noi siamo a vista chiaramente, probabilmente se accendo un PMR ci sentiamo dopo, ecco, anzi non ne ho dubbio, si potrebbe anche fare la prova. Però ho sentito che è un bel parco antenne di radio, adesso io guardo sempre per abitudine, quindi ho presente qui a Sassari come sono i parchi antenne, perché è una cosa che mi cattura lo sguardo, li osservo sempre, però di quello del tuo, che dovrebbe essere appunto particolarmente visibile, in realtà non ho presente, nonostante, ti ripeto, sia abituato a guardare in alto sulle case, proprio perché è un aspetto che mi colpisce, e quindi non ho così, non ti ho mai notato questa stazione così completa. Avanti. Beh, se tu passi via Milano sulle grattestre le vedi, l'unico palazzo alto giallo con tutte le antenne sul tetto si vedono le direttive, o perlomeno forse se ne vedi una si vede la 5 elementi, perché l'altra è più bassa, che la sto smontando per manutenzione, però si vede, è un palazzo giallo, io abito in via La Malfa praticamente, fronte via Milano, subito dopo l'edicola c'è un palazzo con tante antenne sul tetto, lì abito io. Sicuramente si vedono le filari della strada e una parte delle direttive con le verticali, diciamo tre verticali abbastanza alte, quindi sicuramente li hai già visti. No, io non sono su qrz.com, quindi non vedi né il mio parco antenne né la mia sala radio, ho cancellato tutto perché non mi interessa, non appartengo a niente, io sono radioamatore fai da te e mi piace stare nel mio senza andare a far vedere le cose mie agli altri. È un sistema che ho adottato da un po' di anni a questa parte, prima ero presente in tutte le cose, ma poi ho deciso di cancellare un po' la visibilità di tutto, capito? Quindi io non sono manco su qrz.com, il mio nome è attivo, non ho niente da nascondere perché sono abbastanza in regola sia qua nella 3x9 che come radioamatore, quindi il mio nome è attivo, se dovesse capitare di ascoltare le HF o le V e le U, io sono IS0 DFB, Delta Florida Bravo. Ok? No, io PMR non ne uso, l'ho usato un primo periodo così per fare delle prove, poi l'ho sganciato, l'ho tolto perché non mi interessa, è una frequenza a livello cittadina, è una frequenza molto trafficata da un sacco di persone, a me non mi va a mettermi in mezzo, assolutamente. Faccio il mio e lascio fare quello che vogliono fare gli altri, Alberto, ok? Avanti Franco. Sì, carissimo, sempre IS0 DFB, un nome e una garanzia. Claudio, Ciao Luca, me l'ha ascoltato, sì che ti sento. Ciao Vanino, ben rientrato. Sì che ti sento Luca, basta ormai io ti sento. Caspita, un segnale di uno lo sento a Luca, Ocla. Sì, adesso si è arrivato a 4. Oh Lu, vedi, a me mi si è abbassato, lui mi si è arrivato a 4, a me mi si è abbassato, perché? Lu, ma io? No, Luca, Luca, quando ha detto adesso mi senti meglio, tu gli hai dato il segnale più basso, invece a me si è abbassato. Capo, non lo so. Vabbè, la radio è la mia, questa che riceve basso. No, a me ti si è abbassato, ha aumentato da Franco, a me si è sceso a 7. Lo so, vediamo se senti Alberto. Alberto, lo senti a Luca della Teroce? Sì, benissimo. Ciao Luca, ben sentito. Assolutamente, qua è un 7,5-8, tutto pulitissimo. Molto, molto bene. Luca, tu mi ascolti, immagino sarà reciproco. Alberto di qua, nominativo niente, nel senso che basta il mio nome. No, come dicevo, mi spiegava Claudio un po', sì, ho capito che non ti piace la visibilità, più o meno concordo, io ho grande passione per le radio, faccio ascolto, faccio un po' di elettronica, così, però poi alla fine non ho mai avuto la spinta giusta per andare a provare a prendermi il nominativo, che mi servirebbe anche più che altro per stare forse un po' più tranquillo, ma non ho esigenza né di parlare, mi piace più lavorarci sopra che parlare, devo dire la verità. Sono andato giusto una volta a tentarmi l'esame a Cagliari senza fare nulla, sono andato così, contavo un po' sul fatto che ho buona conoscenza della fisica delle onde, dell'elettronica, però non ho fatto niente di normativa, ma proprio nulla, cioè non ho aperto un opuscolo, ho detto vediamo come va, è andata male al pelo, non ho passato il quiz, era quasi tutto di normativa, cose di cui non avevo sentito mai dire nulla, e giustamente non l'ho passato, e poi non ho avuto più la voglia di disimpegnarmi. Adesso non so se quest'anno con l'emergenza Covid verrà rinviato o no. Va bene, comunque rimando avanti Luca che ho divagato, e poi magari proseguiamo il discorso. Luca, vieni avanti. Se eravate Santiago 9, poi adesso sei Santiago 6, 5, 6, 7, perché l'hai toccata? Non lo so, sì, è più vicino a te, è lì all'emiciclo, capito? È lì in quella zona lì, quindi è vicino a te sicuramente. No, anche qua arriva 9 più 10 Alberto, perciò non ci sono problemi. Però non ho capito perché tu hai spostato l'antenna, boh. Oh Claudio, io devo fare i corretti, dai, devo andare a mangiare. Ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Luca, ciao Alberto, ci ascolteremo più tardi, al limite. Ciao ciao, ciao Vanni. Va bene, ciao, buon pranzo, e anche io mi trattengo molto. Lu, allora se attacchi solo il positivo e quando lo avviti in pratica c'è corto nel capo, nel piede di sopra. Nell'antenna, cioè c'è qualcosa che non va nell'antenna, capito? O è il PL o è qualcosa che non va. Se tu non le svitti la massa e funziona bene, la massa deve essere attaccata, il PL deve essere avvitato. Ma buon pranzo Claudio. Va benissimo, scusa Luca, va benissimo, buon pranzo. Niente, va bene, quindi mi sa che siamo rimasti soltanto in due. Ti chiedevo, Claudio, se sai, se hai notizia se questa tornata di esami per il per la patente verrà in qualche modo rinviata, perché io mi ricordo che erano l'ultima settimana di maggio, se non ricordo male. Devo dire che comunque le modalità con cui ci si iscrive, soltanto l'iscrizione per questo tipo di esame, è una follia, perché già il fatto che non si possa fare online, io debba andare comunque a mandare una raccomandata e a autenticarmi una fotografia, già è uno scoglio. Cioè, sembrerà una stupidaggine, uno dice ma se ci tieni sono due sciocchezze, ma già il fatto che in un argomento come le radiocomunicazioni non abbiano reso l'iscrizione semplificata e si afferma 30 anni fa con le stesse modalità che gli devi mandare anche il francobollo per rimandarti la patente, se lo superi già è uno scoglio, ecco, nella mia modo di vedere le cose, nel tempo libero che ho. Quindi per questo ho rinunciato e quest'anno avevo ripensato di farla, invece tutto lo sconvolgimento del virus mi ha di nuovo fatto lasciar perdere il progetto, di cui devo dire non sento nemmeno enormemente la mancanza. La radio si può comunque usare senza aver bisogno di sconfinare in frequenze non ammesse e posso divertirmi ugualmente, ecco, per questo non ci sto perdendo il sonno. Avanti. Sì, vabbè, sono dei punti di vista. Io ho iniziato a trasmettere nel 1975, io non sono molto giovane. Ho iniziato a trasmettere nel 1975. Nel 92 ho preso licenza radioamatore, prima una poi l'altra, perché non erano ancora unificate. Quindi insomma è questione di punti di vista, come ti dicevo. Io l'ho fatto perché la passione alla radio è tanta da ragazzino, poi avendo sempre avuto radio abbastanza grosse, abbastanza sofisticate per quanto riguarda anche la 27, ho voluto prendermi la licenza, anche se non ho mai fatto grandissime cose a livello amatoriale, però tutto ciò che mi serve, capito? Sia al parco antenne che alle radio, poi anche lì è questione di piacerti o meno. A me non interessa fare collegamento, interessa io a livelli locali, trasmetto a tutte le parti, però non mi fa, insomma, non mi sono mai appassionato a livello proprio radiantistico vero e proprio, ecco. Però mi interessava avere la licenza e la patente per la detenzione soprattutto dell'attrezzatura che ho, che ne ho tanta, tutto qua. Va bene Alberto, un piacere parlare con te, mi ha fatto piacere ascoltarti, se magari ci sentiamo stasera che noi siamo in radio, mi fa piacere riscambiare due chiacchiere, così c'è gente che ti può anche dare un supporto per eventuali appunto domanda risposta, ecco, a questi livelli. Ti saluto perché è pronto il pranzo, ti ripeto, un piacere averti ascoltato e spero riascoltarti presto, a te ancora. Sì, è arrivata l'ora di pranzo, va bene. Sì, no, ma forse il punto di vista in realtà ce l'abbiamo uguale. Io ho grandissima passione per la radio e la patente mi sarebbe forse servita anche lì per poter tenere qualche attrezzatura con più tranquillità. Devo dire anche che non ho un grande rispetto per tutto, per le frequenze, non ho mai premuto il PTT dove non dovevo premerlo e quindi mi sento moralmente a posto e anche molto tranquillo, perché per fortuna sono a settori in cui non c'è aggressività e devo dire rispetto moltissimo il mondo della radio, anzi guai se non ci fossero le regole, sarebbe un caos, quindi è giusto che ci sia e che si venga filtrati. Infatti io non sono riuscito a prendermi, non ho dedicato il giusto impegno e la giusta passione. Va bene, ti lascio al tuo pranzo che ci vado anch'io, anche per me è stato un piacere, spero presto, compatibilmente col tempo, quando vi sento spesso sul 10, a volte faccio altro ma tengo il 10 acceso, anzi da quando ho ripreso e ho montato è quasi una certezza, la sera io mettere sul 10 e anche se non parlo assorbo molto. Dai, ci sentiamo presto allora, buon pranzo, ti saluto. Ciao Alberto, buon pranzo anche a te, ripeto, fatti sentire anche se sei in ascolto. Due chiacchiere fanno sempre bene, scambiare due idee, due progettini, due cose, insomma. Ciao, a presto. Perfetto, buon pranzo e un saluto a te famiglia. Ciao ciao. Ok, ciao, chiudo.